Prima edizione. L'informazione del mattino. E alle 6:15 minuti, prima edizione, la iniziamo con un po' di zapping TV per parlare di Lega con Maurizio Crozza. Si può spiegare tutto. Ricordati Giovanni che è tutto un equivoco. Non c'è disonestà, nessuno è disonesto, i leghisti sono perfetti. Non si sono capiti. Tu lo sai come Bossi, no? Alle volte si mangia un po' le parole. Erano tutti lì attorno a lui, nel cerchio magico, con la Rosi Mauro. Erano tutti lì, sai, capo, sono avanzati un sacco di soldi dai rimborsi elettorali. Cosa ne facciamo? Lui voleva dire, comprate titoli di Stato. Sai come... Cosa ha detto? Ma a me è sembrato che avesse detto, comprate titoli di studio. Di studio. Rosi, ce ne vai a comprare 2 o 3 lauree? Non so, ma fai tu 4. Ah, ci vuole il diploma. Ragazzi, volete un diploma? Fai 4 diplomi. Fai un po' di prosciutto, liscia gasata, e poi un po' di lauree, diploma, fai un po' tu. Lui aveva detto, dobbiamo riformare il palazzo, solo che ha detto, e hanno capito, dobbiamo ristrutturare il terrazzo. È tutto un equivoco. È tutto un equivoco, dice Maurizio Crozza, e dopo lo zapping TV, tra poco le prime pagine dei giornali. Prima edizione. Ed eccoci allora pronti con le prime pagine dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola, solo naturalmente come sempre uno sguardo, poi alle 7:20 la rassegna stampa più ampia con Alessandro Milan. Nel frattempo su cosa puntano i quotidiani di oggi? Sulle borse, questa è l'apertura praticamente per tutti, perché ieri è stato davvero un martedì nero e lo è stato per le borse, lo è stato anche ancor più per lo spread che è tornato sopra i 400 punti e nei prossimi giorni ci saranno da collocare molti titoli di Stato italiani, e dunque le preoccupazioni sono molte. Ieri sera è tornato Mario Monti dal suo viaggio in Medio Oriente, vedremo oggi che succederà. Allora, carrellata di titoli come sempre, il Sole 24 Ore, borsa sotto attacco, spread a 404. Allarme tassi in Francia e Spagna, i timori su economia e riforme affondano banche e listini, Palazzo Chigi, cause esogene, no a misure straordinarie, il che significa che Palazzo Chigi è convinto che non centrino vicende italiane. Corriere della Sera, torna la minaccia dello spread, toccata quota 404, in 15 giorni il differenziale con i titoli tedeschi su di 130 punti, Monti, scontiamo le difficoltà spagnole, così il Corriere della Sera. La Repubblica, crolla la borsa, paura per lo spread, Monti, escludo misure straordinarie, a preoccupare è la Spagna, poi attacca la Marcegaglia, e la vicenda questa è quella del lavoro. La Stampa, crolla la borsa, vola lo spread, i partiti corrono da Monti, il Premier irritato. Il Messaggero, crolla la borsa, vola lo spread, Monti in allarme, il lavoro non c'entra, così la carrellata dei titoli di oggi. Leggiamo Alberto Gentili sul Messaggero. Mario Monti, rientrando dal viaggio in Medio Oriente, non ha voluto commentare l'impennata dello spread e il tonfo della borsa, ma chi era a fianco del professore fornisce un'analisi, i fattori sono esterni, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Fatto sta che, come dicevamo, l'attenzione è puntata sulle borse, che questa mattina sono in netto calo anche in Asia. Sul Sole 24 Ore, a centro pagina, l'altra notizia, sentivamo Monti irritato con la Marcegaglia, perché la Presidente di Confindustria dice va rivista la flessibilità in entrata, nessuno chiede di stravolgere tutto ma va ridotta la pressione fiscale. Leggiamo dal Sole 24 Ore di questa mattina, Emma Marcegaglia ha detto che nessuno chiede di stravolgere la riforma del lavoro, ma ci sono alcuni punti, come appunto quello sulla flessibilità in entrata, che vanno rivisti, e al governo dice va ridotta la pressione fiscale. Oggi ci sarà un vertice con le altre associazioni di imprenditori e di datori di lavoro per presentare le proposte al Premier Monti, che come sentivamo incontrerà nei prossimi giorni di nuovo gli imprenditori per parlare ancora di lavoro. Il paradosso di una riforma che ostacola l'occupazione, l'intervento invece sul Corriere della Sera a firma di Maurizio Sacconi. Naturalmente analisi e commenti, il vero allarme sulla crescita, Massimo Riva sulla Repubblica, e ancora i mercati chiedono altre risposte, così La Stampa. Dicevamo, i commenti li trovate un po' su tutti i quotidiani di questa mattina. L'altra notizia che domina le prime pagine è quella che riguarda invece la Lega. Dicevamo, è stata la notte delle scope a Bergamo, dove si è riunita la base leghista dopo le vicende giudiziarie, dopo l'addio alla carica di segretario federale di Bossi e le dimissioni del figlio Renzo. Allora, com'è andata? Vi facciamo sentire innanzitutto un altro breve passaggio di quello che ha detto Maroni dal palco. La Lega non è morta. La Lega non morirà mai, riparte da qui, da questa meravigliosa platea. La storia della Lega è una storia di tanti anni. La Lega Nord, la potentissima, torniamo ad essere la potentissima e non ci sono cerchi che tengano. Così dunque Maroni dal palco, La Padania questa mattina titola: si ricomincia, Bergamo e l'orgoglio leghista, Bossi chi ha preso i soldi della Lega li deve ridare, siamo pronti a dare battaglia fino alla libertà dei nostri diritti e della nostra terra. E siccome sulla Padania le immagini contano e contano parecchio, quella che troviamo questa mattina è un abbraccio, l'immagine di un abbraccio ieri sera tra Bossi e Maroni, una sorta di passaggio di testimone: si ricomincia, l'orgoglio leghista, così La Padania. Cosa scrivono gli altri quotidiani? Corriere della Sera, Bossi piange, chiede scusa, Maroni pulizia, via Rosi Mauro, le colpe dei figli e quelle dei padri, scrive Gian Antonio Stella, La Dinastia. La Repubblica, Maroni in campo, dolore per Bossi, fuori corrotti, la Lega fischia al trota, dimetteremo noi Rosi. Scrive Curzio Maltese, il dubbio dei padani, Luisa dove hai messo la scopa, sono arrivati a Bergamo dalle casette a schiera della Brianza, sono arrivati dai centri commerciali, dai villini coi nannetti in giardino e con la ramazza in mano e nel cuore uno stato d'animo finora sconosciuto al buon leghista, fra tanti sentimenti e risentimenti evocati in 20 anni di psicopolitica verde, il dubbio. Ecco la caduta dei semidei padani, così trascrive Curzio Maltese. Anche qui i commenti sono moltissimi su tutti i quotidiani. Allora, ancora qualche titolo: nasce la Lega di Maroni, risorgeremo, così scrive La Stampa, la prima volta senza tributo al Senatur. Il Messaggero, Bossi, mi scuso per i figli, ma Rosi Mauro non si dimette, Maroni la cacceremo noi dalla Lega. E poi ancora l'inchiesta in primo piano, ancora sulla prima pagina del Messaggero, alla trota 1.000 euro per volta, le accuse dell'autista al PM, quelle che vi abbiamo fatto sentire anche noi e che ha raccontato anche in un video. Qualche segnalazione, anche se c'è da dire che sulle prime pagine dei quotidiani praticamente ci sono quasi solo queste due notizie questa mattina e c'è poco d'altro. Comunque qualche segnalazione ancora c'è e la prendiamo ad esempio dal taglio centrale del Corriere della Sera, che racconta oggi dell'accordo Tesoro Banche, Passera convoca le aziende, così saranno pagati gli arretrati alle imprese, si cerca una soluzione, scrive il Corriere della Sera, al problema sempre più pressante dei ritardi dei pagamenti dello Stato alle imprese. Ecco che un accordo pare vicino, saranno pagati gli arretrati alle imprese, e questa è una notizia che si attendeva. Altra notizia, la prima pagina del Sole 24 Ore, anche questa si prospetta come una buona notizia, l'IKEA che sposta dall'Asia all'Italia la produzione di mobili nelle aziende di Piemonte, Veneto e Lombardia, qui produrrà la nuova IKEA, e scrive sulla Stampa a proposito proprio di questo Massimo Gramellini, se avessi il potere assoluto per 100 minuti farei piazza pulita dei mestieri che non possono più darci un mestiere, perché altrove sono fatti meglio a minor costo, e concentrerei tutte le risorse disponibili su ciò che ci rende unici: l'artigianato di qualità, il design, il cibo, il vino, il turismo e la cultura. E appunto, scrive Massimo Gramellini, anche l'IKEA sembra essersene accorta. Lasciamo dunque le prime pagine dei giornali, i commenti, le analisi. Torneremo a parlarne anche nella seconda parte di Prima Edizione, perché ora invece vi voglio far sentire una chicca che arriva dal mondo del cinema, ma che riguarda una vicenda che è ancora una ferita aperta in Italia, perché tra pochi giorni nelle sale italiane al cinema arriverà Diaz, prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, già premio del pubblico dell'ultima Berlinale, un film del quale molto si discuterà. E allora il regista Daniele Vicari lo ha sentito, la nostra Marta Cagnola. Diaz, perché nel momento in cui ho letto gli atti dei processi io mi sono visto dentro quella scuola, io cittadino italiano mi sono visto dentro quella scuola e ho visto intorno a me crollare i principi fondamentali della nostra democrazia, e mi è sembrato proprio un dovere fare un film per raccontare questa sensazione. Com'è stato il costruire un film la cui idea già suscitava polemiche, il solo pensiero? No, ma in Italia suscita polemica qualunque cosa abbia intenzione di fare luce, di fare chiarezza o di rendere note delle cose di cui incredibilmente si tende a non parlare, si tende a mettere in secondo piano. Credo che tra l'altro nel caso specifico della scuola Diaz e del carcere di Bolzaneto ci sia poco da chiarire, nel senso che i processi hanno chiarito tutto, non c'è stato nessun difensore dei poliziotti, diciamo, imputati, che abbia detto non è vero che è accaduto quello che è accaduto. Ciascuno ha tentato di non essere coinvolto, di non essere, giustamente, insomma, come fa parte del gioco di un processo, no? Io non c'ero, io non ho visto, io ero dall'altra parte, quello lì non ero io. Però poi nessuno ha detto no, questa cosa qui non è vera, è falsa. Queste persone che dicono di essere state distrutte fisicamente e psicologicamente mentono. Nessuno ha avuto, diciamo, la possibilità di dirlo. E quindi, se è una cosa così sotto la luce del sole, vale la pena raccontarla, anche perché dopo l'11 settembre tutte queste vicende sono incredibilmente passate in secondo piano. Però secondo me questo fatto, che siano passati in secondo piano, è un problema, non è una cosa accettabile. Prima Edizione, con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È l'11 di aprile e la prima edizione di Italia in controluce con Daniele Biacchesi. Oggi entriamo ancora una volta nelle carceri italiane e cerchiamo di capire quali sono i livelli di sicurezza nei nostri penitenziari. Reportage Maria Luisa Pezzali. Domenica 26 febbraio 2012, ore 10, carcere di Canton Mombello, Brescia. Fatmir Gashi, 24 anni, originario del Kosovo, in cella da 2 anni per una condanna per rapina a fine pena 2016, è in servizio alle cucine. Deve svuotare l'immondizia in cortile, un'operazione per cui il regolamento impone la presenza di un agente. Fatmir, però, quella domenica mattina è da solo. Vicino al muro di cinta c'è un mucchio di mattoni, pochi secondi per decidere, poi si arrampica, scavalca e scappa. Nessun piano per nessuna evasione spettacolare, solo tempismo, agilità e una circostanza. A causa della mancanza di personale, conseguenza di tagli e blocco del turnover, lungo il perimetro del carcere non c'era nessun agente di guardia. Nelle torrette nessun uomo in divisa. La sorveglianza era affidata alle telecamere, solo parzialmente funzionanti per mancanza di manutenzione, e a 12 agenti per tutto il penitenziario. Roberto Santini, segretario del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria. L'unica cosa che è variata è che l'amministrazione ha sollevato dall'incarico al momento il comandante. Quindi questo è sempre il più piccolo e poi ne paga le conseguenze. E il personale lavora con una tensione non indifferente. È previsto per Brescia 250 detenuti con la media di 280 agenti. Abbiamo oggi a Brescia all'incirca 600 detenuti con 180 agenti, quindi un solo agente da solo gestisce 130-140 detenuti. Sinceramente ogni istituto che noi ci giriamo c'è il sovraffollamento dei detenuti. Noi abbiamo celle con previste 7-8 persone, dentro ce ne stanno 15-16, cioè addirittura istituti penitenziari messi letti a castello, che hanno tagliato le gambe del letto per fare entra l'ultimo lettino sopra, quindi cioè veramente siamo arrivati a un punto di non ritorno, non c'è più nemmeno il rispetto della dignità dello stesso detenuto. Parlare di sicurezza nelle carceri significa anche ricordare che per un detenuto che evade, cronaca di ordinaria inefficienza del sistema giustizia, ce ne sono però decine che in carcere perdono la vita. I numeri sono inaccettabili per un paese civile. Nel 2011, secondo i dati raccolti da Antigone, l'Associazione per i diritti dei detenuti, si sono registrati 154 morti in carcere, di cui 53 per suicidio. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Beh, la sicurezza della loro vita che è messa nelle mani dello Stato, e lo Stato ovviamente, come tutte le persone che è in custodia, deve farle uscire da quella custodia così come sono entrate, sane, nell'ipotesi in cui siano entrate sane. Queste persone con il sovraffollamento diventano numeri e non ci si accorge della loro malattia, del loro disagio, della loro disperazione, perché gli operatori sono troppo pochi per potersene accorgere. Oggi alle 13.30 torneremo con nuove storie, naturalmente, su Radio 24. E alle 6.39 minuti siamo pronti per la seconda parte di Prima Edizione. Comincio col darvi una notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie. Almeno 2 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite in un attentato contro un autobus in un'isola del sud delle Filippine, isola già martoriata dal terrorismo islamico. Questa mattina c'è stato un nuovo attentato. Ma c'è una notizia importante arrivata ieri sera tardi, dagli Stati Uniti, perché di fatto c'è ormai lo sfidante di Obama, Rick Santorum, ha abbandonato di fatto la corsa alla Casa Bianca, spianando la strada alla nomination così di Mitt Romney come l'anti-Obama, e quindi da oggi possiamo dire che ufficialmente davvero parte la campagna elettorale Romney-Obama. L'annuncio è stato dato dallo stesso Santorum. Ringrazio tutti, abbiamo avuto una difficile weekend, un weekend di passione, le parole sono quelle di Santorum, per nostra figlia Bella, la gioia della nostra vita, che sfortunatamente è molto malata. È stata ricoverata, così dice Santorum, ma è una lottatrice, è tornata in famiglia, noi vogliamo passare con lei più tempo possibile. Al di là delle questioni personali, c'è anche da aggiungere che Santorum era comunque dato in svantaggio nei sondaggi anche nel suo stato, la Pennsylvania, e quindi comunque sarebbe stato tagliato fuori anche dai numeri. Fatto sta che ha abbandonato e quindi ufficialmente parte la corsa Obama-Romney per la Casa Bianca. Voltiamo ancora pagina, ci sono altre notizie proprio di questa mattina, degli ultimi minuti, e arrivano dall'India, riguardano Paolo Bosusco, l'italiano, ricorderete, rapito dai maoisti. Perché? Perché è arrivato un nuovo messaggio che riguarda la sua possibile liberazione, ma chiedo tutto a Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi, un nuovo messaggio, un audio messaggio che non è stato ancora diffuso e disponibile online, è stato citato dall'emittente NDTV ed è un messaggio che riguarda ovviamente il rapimento, come dicevi, di Paolo Bosusco. Lo ricorderete, l'italiano rapito il 14 marzo scorso in India, nello stato di Orissa, e secondo questo messaggio, che è del leader dei maoisti Sabyasachi Panda, l'uomo sarà rilasciato attraverso un processo democratico. Certamente una frase abbastanza criptica in questo momento di ansia per la sorte del nostro connazionale, ma almeno un segnale da parte del gruppo maoista che da ieri non si faceva sentire. Ecco, il capo dei maoisti comunica anche di aver ricevuto una copia del documento con gli impegni che il governo indiano si assume in questa vicenda per facilitare il rilascio di Bosusco. Ieri c'era stato un segno di speranza dopo il rilascio della moglie del leader dei maoisti, incarcerata dal 2010. La donna faceva parte di una lista di 7 nomi di detenuti che Panda aveva trasmesso ai negoziatori dopo il sequestro e di cui esige la liberazione in cambio del rilascio di Bosusco. Lo ricorderete, il 25 marzo scorso il leader guerrigliero aveva rilasciato senza contropartite, come gesto di buona volontà, Claudio Colangelo, l'altro uomo italiano consegnato che era stato rapito dai maoisti ed era stato poi consegnato appunto il 25 marzo a un gruppo di giornalisti. Tutto questo però non è servito a ingombrare il terreno per una rapida fine della vicenda come si sperava, e a complicare tutto ciò anche il caso dei due marò italiani incriminati per la morte di due pescatori sempre in India. Certamente due vicende che non hanno nulla a che fare una con l'altra, ma che non contribuiscono i due casi insieme contemporanei a alleviare la tensione fra il nostro paese e l'India. Ovviamente nel corso della mattinata vi terremo aggiornati se ci saranno novità. E naturalmente gli appuntamenti con GR24. Grazie Valentina Furlanetto. Queste le ultime notizie di questa notte, ma è stata, l'abbiamo ripetuto dalle 6 di questa mattina, anche la notte delle scope, la notte delle scope per il Carroccio. Dopo l'inchiesta e dopo le dimissioni per la Lega è stato il momento della base, e allora sentiamo com'è andata ieri sera a Bergamo. Sì. Danni sono stati fatti da quelli che portano il mio cognome, questo mi spiace enormemente, scusatemi. Il nostro grande condottiero era commosso e non vedo perché non lo dovessi essere io. Lui ci ha portato fin qui e lui ci guiderà sempre fino all'indipendenza. Noi siamo militanti della Lega, la Lega è un partito che fa e noi facciamo. Noi siamo qui per ribadire il fatto che la Lega non è rappresentata da queste persone, la Lega non è rappresentata da quello che hanno fatto queste persone, e i militanti della Lega sono gente onesta e per bene. Io sono della Lega, io sono prima di tutto una militante. I soldi alle sezioni e ai militanti, non in colonia. Seconda regola, meritocrazia, chi è capace va avanti. Terza regola, largo ai giovani, ne abbiamo tanti. In 90 secondi così abbiamo voluto raccontarvi la notte delle scope del Carroccio a Bergamo. Io saluto Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ci lasci un attimo di pazienza per il traffico, perché alle 6.45 c'è chi è già in macchina e poi ripartiamo da qui. Prima edizione. Stefano Folli, dunque, che ti è parso il Bossi di ieri sera a Bergamo? Ha ceduto le armi, secondo te? Sì. No, penso di sì. Penso, la figura di Bossi ieri sera era, insomma, diciamo, un po' patetica, anche quella sua chiedere scusa per i figli. Mi è sembrato un personaggio un po' consegnato al mausoleo. Resta un'icona, ma obiettivamente anche per le sue condizioni fisiche non mi sembra in grado di governare la Lega, non avendo più quella rete di cortigiani che aveva attorno, il famoso cerchio magico. Detto questo, la manifestazione in sé non mi ha molto convinto. Il fatto di riempire uno spazio pubblico aperto da tanti militanti appassionati lo consideravo abbastanza facile per un partito come la Lega, però si tratta di convincere anche i tanti che sono rimasti a casa, i tanti elettori della Lega che sicuramente hanno vissuto questa vicenda con molti dubbi, con molto sconcerto, e che difficilmente possono essere convinti soltanto da ciò che è stato detto ieri, dove effettivamente Maroni ha preso in mano la leadership del partito. Rosi Mauro ha detto ieri sera da Vespa: io non lascio perché devo lasciare. Paradossalmente dal cerchio magico è diventata la più romana dei leghisti. Sì, è vero, però non mi convince neanche questo tentativo di scaricare su Rosi Mauro tutte le responsabilità, come se fosse ormai la strega a cui si attribuiscono tutti i mali della Lega. Rosi Mauro è un esponente di un cerchio stretto di collaboratori di Bossi, non è però l'unica depositaria dei vizi della Lega, se sono vizi. E direi che non si può nemmeno pensare di rinunciare a un'operazione profonda di rinnovamento del gruppo dirigente scaricando ogni responsabilità sulla Mauro, che non si vuole dimettere, o su Bossi Junior, che invece l'ha fatto. Ci sono troppe contraddizioni in questa vicenda. E troppe responsabilità. Si può da una parte dire il complotto, come ha ancora detto Bossi ieri sera, e dall'altra parte reclamare la pulizia con le scope, come ha detto Maroni. Sono due cose che non stanno insieme. Io ti metto sul tappeto un'ultima questione, ce ne sarebbero molte. Si dice che in queste ore si stanno scontrando l'anima veneta e quella lombarda della Lega. C'è anche da dire che tra le due, una, soprattutto il Veneto, va al voto con appuntamenti importanti, l'altra un po' meno. Peseranno anche le prossime amministrative in quel che succede nel Carroccio, secondo te? Sì, peseranno certamente moltissimo. Le due anime, come le hai chiamate tu, sono anche un po' diverse fra loro, lo sono sempre state storicamente. Io penso che la convenienza politica dei gruppi dirigenti sia di stare insieme in questo momento, non di dividersi. Stare insieme però comporta, diciamo, degli accordi politici, degli equilibri che devono essere ancora in parte trovati, ma soprattutto comporta, io credo, l'assoluta necessità di un radicale rinnovamento, non fittizio, non Rosi Mauro, no, è un qualcosa di molto più profondo, che comporta l'uscita di scena di un gruppo dirigente che invece vedo è ancora lì, abbarbicato, e vediamo se Maroni sarà capace, come sembra che abbia detto ieri sera, ma vediamo, sarà capace di guidare questo rinnovamento, altrimenti il problema della convivenza delle due anime si riproporrà in maniera molto netta. Grazie, questo è il quadro generale, avremo occasione ancora di parlarne nella giornata di oggi. Grazie davvero nel frattempo Stefano Folli, buona giornata. A voi. Giusto il tempo per darvi uno sguardo alle borse, che dicevamo comunque restano un'emergenza impellente nella giornata di oggi. Che sta succedendo in Asia? La borsa indiana di Mumbai ha aperto meno 0,65%, perde oltre un punto percentuale anche Hong Kong. A Tokyo la perdita si è un po' ridotta, ma è ancora meno 0,9%. Vedremo che succederà in giornata con le borse europee e con la borsa di Milano. Nel frattempo 6:52 minuti, Carmelo Lauricella in regia, grazie ad Alessandro Longoni. Prima edizione si conclude qui, ma ci sentiamo tra pochissimo con l'attualità di GR24. Buon mercoledì da Anna Migliorati.